X24, la storia. Se ti cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Che cos'è una canzone? Una canzone secondo me è uno sfogo, di quale io praticamente scarico, racconto quello che non racconterei neanche a un amico o neanche a un amico più fidato, perché mi vergognerei. Invece nella canzone mi spoglio completamente, racconto proprio quello che veramente mi viene da dentro. Le mie sono delle istantanee di emozioni o di sensazioni o di realtà che vedo. Classe 1952, figlio unico di Carlino, un camionista, e di Novella, una casalinga. Vasco Rossi nasce e cresce a Zocca, sull'Appennino modenese. Ancora oggi è una rockstar da milioni di copie di dischi sulla breccia da 30 anni. Un successo che sembra inarrestabile e che continua a riempire gli stadi di tutta Italia con un pubblico che attraversa ormai 3 generazioni. La sua è una storia, è la storia di un'ascesa, di cadute, di trionfi, di drammi personali, ma è anche la storia dell'unica vera rockstar italiana. Quello che vi raccontiamo è un Vasco inedito, che si confessa in un'intervista davvero speciale. Chi è Vasco Rossi? È un artista, un musicista che ha imparato a suonare uno strumento, la chitarra, che scrive canzoni e le canta per necessità, perché se le avessi scritte gli altri non le avrebbero cantate. Può fare qualsiasi cosa Vasco, anche una canzone di un minuto in un disco di 13 pezzi che la gente li compra e va a vedere i concerti. È l'unico al mondo che può dire, dicendo qua tu sei là, vieni ben qua, cioè, se lo dice un altro ti sei che stai dicendo. Una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. La gente ha un'immagine di Vasco della vita spericolata, che è poi l'immagine che ha voluto dare lui, no? Quindi uno pensa di incontrare Vasco e che sia un pazzo scatenato, ecco. Quando parla della sua infanzia, parla soprattutto di sé e si inventa tante cose, nel senso che gli piace esagerare su alcuni particolari. Questo è Vasco Rossi nelle parole di chi lo conosce, lo ama, ci lavora o che ci vive. Amici, amori, parenti, colleghi, ma per Vasco Rossi l'avventura di una vita ha inizio con un dolore improvviso e feroce, la morte di suo padre in un incidente stradale. Vasco ha 27 anni, è il 31 ottobre del 79. Un giorno mi ha svegliato dicendo che era morto, è stato uno shock terrificante, però insomma è entrato dentro di me, capito? È entrato dentro di me con tutta la sua forza e io sempre pensando che lui comunque era una parte di me, sono diventato ancora più forte, ancora più determinato, ancora più convinto e dopo non scherzavo più, non ce n'era più per nessuno, capito? E veramente gli altri mi sembrava che giocassero, mentre io no, non giocavo più. Una canzone per te. Non te l'aspettavi? Vasco Rossi fa sul serio. Tra il 1979 e il 1980 escono molte sue canzoni, alcune delle quali diventeranno famosissime come Alba Chiara e Colpa d'Alfredo. Poi, nel dicembre 1981, viene invitato a cantare a Domenica Inn. Al pubblico della domenica pomeriggio propone il brano Sensazioni forti. Sensazioni forti. Non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere. Ma l'esibizione di Vasco non piace al popolare giornalista Nantas Salvalaggio, che in un articolo sul settimanale Oggi si scaglia duramente contro di lui. Salvalaggio critica i contenuti della canzone, definendone il messaggio abietto. Definisce inoltre Vasco Rossi un bel ebete con gli occhiali fumé dello zombie, dell'alcolizzato, del drogato fatto. Questo il ricordo di Massimo Poggini. In casa sua Oggi era l'unico giornale che entrava e per cui lui si preoccupava non tanto di quello che era scritto dentro questo articolo, ma del fatto di che sua madre lo andava a leggere. La madre di Vasco risponde a Salvalaggio con una lettera. Vasco non è né un santo né un diavolo, ma è un ragazzo onesto come suo padre. A me questo basta. Le auguro che sua moglie e sua figlia possano pensare altrettanto di lei. Ma le critiche non fermano Vasco. Nel 1982 sbarca a Sanremo con Vado al massimo, una canzone reggae che non fa presa sulle giurie ma che in qualche modo dà il via alla sua trionfale carriera. Amici, al Festival di Sanremo, Vasco Rossi! Da Sanremo io ero già convinto, determinato, che dovevo colpire quella platea televisiva in quei 3 minuti. Quindi ho scelto la canzone giusta, ho scelto il modo giusto di fare, eccetera. Avevo perfettamente in testa cosa volevo fare, non ero fatto fuori di testa come pensavano tutti, erano fuori di testa tutti gli altri. E gli altri, secondo me, mi sembravano tutti un po' lì preoccupati, come sono vestito, non vinco, io vinci te, vinci tu. Mi sembravano tutti dei bambini dell'asilo. Io invece, io non potevo scherzare, io dovevo arrivare e sarei arrivato. Al massimo, intanto tutti quelli che guardavano Sanremo per ridere si sono divertiti, tutti quelli che lo guardavano sul serio si sono scandalizzati e io ho aggiunto quello che dovevo fare. Con la sua aria irriverente, l'anno successivo Vasco torna a Sanremo con Vita spericolata, una canzone che sarà un vero e proprio terremoto, ribaltando tutti gli stereotipi perbenisti dei brani da festival. E proprio qui torna ad essere attaccato con durezza da Nantas Salvalaggio. Queste le sue parole. E ho sentito il grande Nino Manfredi. Lui dice che in fondo questo Vasco Rossi, detto anche Vasco Cemarcia Rossi, dice che è uno dritto così, che fa il Baudelaire dei poveri, macerato, soffre, si cosa, quelle cose lì. Non è vero nulla. Lui è uno strumento per vendere i dischi. Non so se poi li vende, ma insomma, lui tenta. Voglio una vita... Vedrai che vita vedrai. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la storia di una vita spericolata, quella di Vasco Rossi, che proprio con questo brano, uscito nell'83, vende milioni di copie e diventa l'idolo di una generazione. Per Vasco è un successo esplosivo e dilagante. I due festival di Sanremo, Domenica Indie, articoli, le copertine di tutti i giornali, pubblico e critica capiscono che è nata una star. Un talento che porta in Italia sonorità e ritmi della grande musica internazionale. Eppure Vasco rivendica con orgoglio di essere un italiano di zocca, un paesino di 4.500 anime dove è nato. Così nei ricordi dell'amico Gaetano Curreri. Lui è un po' come è un po' il figlio della sua terra. Cioè, Zocca è un paese dove tutti lavorano dalla mattina alla sera durante la settimana, poi sabato sera, insomma, non dico che sono tutti ubriachi, però insomma ci danno dentro. Se è finita in un paese la cosa bella è quella che tu e le persone ci cresci insieme, no? Per cui non sei solo amici, sei un'altra cosa secondo me, perché tu non puoi ad esempio uno che non lo sopporti, capito, eliminarlo dalla tua vita, perché il giorno dopo lo rincontri, per cui lì impari la tolleranza. Dalle feste nuziali ai concorsi canori. Il suo primo concorso Vasco lo vince nel 1960. Il premio, una coppa, gli viene consegnato al Cinema Antica Filmeria Roma di Zocca, che oggi è il bar Bibap, punto di ritrovo dei suoi fan. Questo il ricordo dell'amico Marco Manzini. Ogni volta che mi sveglio. Questo bar, il Bibap, è un bar che è uno dei punti dove loro sperano di incontrare Vasco, perché sanno che ogni tanto viene qui. Io scrivo canzoni a 15, 16 anni, 17 anni perché mi annoiavo molto mentre studiavo. Studiavo sistematicamente perché ti davano il presalario, serio, di una famiglia povera. Quindi 500.000 lire erano, quei tempi lì erano un sacco di soldi, per cui io per 500.000 lire studiavo come un matto. Con le prime 500.000 lire, mi ricordo che mettevo le 50.000 lire sopra il tavolo e pensavo che con ognuna di quelle avrei potuto comprare una chitarra nuova, capito? Erano i primi soldi che hai guadagnato? Sì, i primi soldi che ho guadagnato. Noi eravamo considerati dei montanari quando andavamo a scuola giù, tipo a Modena o a Bologna, no? Sono arrivato in città ed ero uno di montagna. Sembrava che l'avessi scritto in fronte, che ero di montagna. Per cui, cioè, ero considerato uno di serie, come oggi gli extracomunitari. Cioè, ci mettevano addirittura, c'era nella scuola, c'era una sezione solo per i montanari, che era la sezione H. È con gli amici e tra le colline di Zocca che si sviluppa il talento di Vasco. È la metà degli anni 70, il periodo delle radio libere. Vasco e i suoi amici, con i loro risparmi, comprano un trasmettitore da 10 watt, affittano una villetta e fondano Punto Radio, un'avventura che parte via etere nel settembre del 1975. Così Marco Manzini e Gaetano Curreri. E cominciamo le trasmissioni, il primo segno lo ricevemo dal lago di Garda. Allora dicevamo, forse stiamo sparando troppo lontano. Vabbè, io vi ricordo ancora un altro il nostro indirizzo, Punto Radio, casello postale numero 9, Zocca di Modena. Il programma è mio e me lo gestisco io. A un certo punto nasce l'idea di fare appunto delle feste, delle discoteche, queste feste di Punto Radio. Lui nel giro di qualche mese era diventato il disc jockey più amato, quello più ricercato. Punto Radio, insomma, no? Al Jeans Club di Finale Emilia, tutti i giovedì sera. Un periodo straordinario, mi divertivo da matti, è veramente una vita straordinaria quella del disc jockey, perché sei sempre in mezzo alla gente che si diverte, capito? Il tuo lavoro è stare in mezzo alla gente che si diverte e la fai divertire con della musica, quindi più bello di così, un sacco di ragazze che non sanno cosa fare, ogni tanto vengono a chiederti di mettere su un disco, e allora tu magari glielo metti. È l'etichetta Borgatti Music, fino ad allora specializzata nel genere liscio, che produce il primo 45 giri di Vasco, Jenny e Silvia. È il 1977 e il brano è un successo, soprattutto tra il pubblico femminile. Poi i soldi che arrivavano, capito, in una quantità incredibile per quei tempi. Allora comprare BMW nera e... Mi ricordo che avevo anche un cappello, giravo anche con un cappello preciso da BMW nera, poi facevo le gare, strumenti di velocità. Vado a fumare una sigaretta. Il 10 gennaio del 79 Vasco Rossi debutta in televisione, è uno dei due concorrenti della trasmissione 10 Hertz, condotta sulla Rai da Gianni Morandi. Andorra e Vasco Rossi, due debuttanti, pensate due debuttanti, la prima volta che appaiono in televisione e forse anche il loro primo disco. Ma sentiamo Vasco Rossi se è vero che il tuo primo disco... No, è il secondo, questo è il secondo, presento. È il secondo non play album, sì. È il secondo non play, ma tu dalla... Però pronuncia uscire, dalla pronuncia mi sembra sono di... esatto, di dove? Di Zocca. c'è la Zocca è provincia di Modena. È perché la Z è emiliana, è un po' particolare, no? Lo provo a dire un'altra volta? Zocca. Ah. Zocca. Vabbè. Alza sempre la voce, sa sempre tutto lei. E anche quando ci ha torto non lo ammette mai. Lei è molto sicura di essere sempre la prima. Ed è molto nervosa proprio come una diva. Mentre ero in questo periodo così straordinario, insomma, per cui stavo benissimo, tutte le sere uscivo con tutti gli amici, pagavo la cena a tutti perché andavamo sempre in 20-30 a mangiare, insomma, così. Arriva la cartolina del servizio militare, improvvisamente. Avrei perso un treno, capito, se andavo militare. Il primo della serie che vi presentiamo questa settimana si chiama Vasco Rossi. Non so molto di lui, devo dire la verità. In questo momento sta facendo il servizio militare e infatti ha intitolato una canzone Faccio il militare. Domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare. Avevo dei problemi di cervello io in quel periodo proprio, cioè dovevo assolutamente non fare militare, insomma. Quindi ho fatto tutti i tipi di visite possibili, però naturalmente prima di uscire dalla caserma per andare all'ospedale di Napoli mi ha preso uno e mi ha tagliato i capelli a zero. Anche questa è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché io tenevo i miei capelli come praticamente la mia vita. Vabbè. Faccio militare. Para para para para para para para para para para para. Mi hanno fortunatamente dato l'articolo 29, cioè incompatibilità con il servizio militare, per farmacodipendenza, perché a quei tempi io avevo già cominciato a mangiare del Plesin, sai quelle pastiglie che si usano per dimagrire, che si usavano per dimagrire, che era la base di anfetamina. Io ne mangiavo una al giorno, stavo molto bene, molto magro, viaggiavo benissimo, andavo fortissimo, non mi fermavo mai, stavo da Dio, avevo trovato la soluzione della mia vita. Il problema è che dopo per smettere è stata durissima. Nel 79, quando debutta in televisione a 10 Hertz, Vasco Rossi ha quasi 30 anni, ha già scritto una decina di canzoni. Il suo amico Gaetano Curreri, che lo aveva spinto a suonare, adesso lo spinge a fare concerti. E il suo esordio davanti al pubblico è a Bologna, in Piazza Maggiore. Me lo ricordo molto bene. So che eravamo in una quindicina sul palco, perché avevo portato tutti i miei amici coristi, no? Eravamo più sul palco che giù, secondo me, che gente giù ce ne saranno state una ventina, trentina di persone. Finì sto concerto, dico, cazzo, ma allora va bene, se si può fare così va bene. Quindi quello è stato il primo. Che cosa c'è? Ti sei pentita? Vorresti ritornare? L'idea del rock è nata proprio nei primi concerti, come dicevo prima, perché lì ho cominciato a pensare che invece di usare la chitarra per creare le canzoni, di usare il gruppo, perché così sarebbe venuto fuori un sound diverso. Guido Elmi, produttore discografico e collaboratore di Vasco Rossi. Lui si chiama Vasco, poi c'è Andrea, Mimmo, Maurizio, Massimo, Roberto. Noi abbiamo fatto una gavetta incredibile che nessuno fa più, cioè abbiamo fatto concerti davanti a 5 persone con gente che ci tirava le freccette. Vicenza, in piazza Vicenza, allora dopo il comizio del PSI, no? Vado su, comincio a cantare, Jenny non vuole più dormire, c'era un bar con tutti i ragazzi seduti al bar che bevevano tranquillamente, facevano delle freccette di carta e ce le tiravano. Allora io mentre cantavo arrivavano queste freccette di carta e io non sapevo come reagire. Mi sono vergognato talmente tanto, avevo 26 anni, facevo di gioco, guadagnavo soldi, avevo una macchina, un sacco di donne. Questa umiliazione, capisci, era talmente grossa che volevo sprofondare, sparire. Sono sceso dal palco, alla fine non so neanche come, ho detto, io pensavo, io questo mestiere qui non lo faccio neanche se me lo ordina il medico. Non ti devi preoccupare, so io come fare, so io come fare. E quella lì è cominciata praticamente la storia dei miei concerti rock, perché dopo è stata sempre una guerra. Dopo scendevo veramente dal palco e facevo botte, capito, quando mi prendevano in giro. I dischi di Vasco Rossi si vendono e lui è in continua evoluzione. Sperimenta nuovi modi di scrivere e nuove musiche. L'album che farà da spartiacque nella carriera di Vasco è Bollicine. È la primavera del 1983, così Red Ronnie. Io recensii Bollicine di Vasco Rossi dicendo che con Bollicine nasceva un nuovo suono italiano, nasceva il rock italiano, e in effetti con Bollicine è nato il rock italiano, perché i suoni di Bollicine sono stati rivoluzionari per quel periodo, erano dei suoni rock, ma avevano un sapore molto, molto americano. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la storia di una rockstar, Vasco Rossi, idolo popolare, travolto dal successo, protagonista di una vita spericolata fino alla rottura dell'incantesimo. È venerdì 20 aprile dell'84. All'alba i carabinieri arrestano Vasco Rossi. Ieri sera il noto cantante è stato interrogato nel carcere pesarese di Rocca Costanza. Al termine, il magistrato inquirente, il dottor D'Aprile, ha disposto che fosse tolto dall'isolamento. A Vasco Rossi il magistrato contesta la detenzione di non modiche quantità di cocaina e la cessione di modiche quantità di droga a titolo gratuito. Io in quest'anno, in quell'anno, mi sono procurato, sono colpevole di aver in effetti detenuto, credevo che comunque il fatto di comprarla, capito? Cioè di averla, cioè di comprarla e di usarla non fosse punita. Infatti, cioè, la legge non è precisa su questi termini qua. Dice che l'uso, capito, per uso personale, modiche quantità, non è punibile, però alla fine poi c'è l'incastro che quando la vai a comprare, capisci, la devi comprare, non puoi andare a comprare un grammo alla volta. Cosa, un'altra battuta diceva un mio amico, era quella che la coca all'inizio tu la vai a comprare. Dopo un po' è la coca che va a comprare da sola. Ne sono uscito perché è stato molto importante anche l'esperienza brutale, capito, della galera, che in effetti mi ha un attimo, capito, messo di fronte a una realtà, sono tornato con i piedi per terra, per cui, e poi è stato quello lì. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Che eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Ho fatto un periodo di negli anni 80 di anfetamina, cocaina, di tutto, e ne sono uscito, ci ho messo un bel po', è stata durissima, perché uscire dalla dipendenza, soprattutto dell'anfetamina, è terribile. Terribile, terribile proprio. E poi, soprattutto, prima o poi dovrai smettere. Quindi dico, prima o poi dovrai imparare comunque a divertirti senza. Quindi tanto vale, quello che dico a mio figlio sempre, quello più grande, è questo. Dico, tanto vale che cominci a provare adesso a divertirti senza, capisci? Perché tanto prima o poi lo dovrai fare comunque. Per un curioso paradosso, quell'arresto si rivela una liberazione per Vasco Rossi. Infatti la sua vita esagerata è finita. Allora è il momento di guardarsi dentro, di disintossicarsi, di prendersi cura di sé. 22 giorni di carcere nella cella numero 22 del carcere di Pesaro impongono a Vasco Rossi uno stop nella sua carriera, uno stop di 2 anni, niente canzoni, niente apparizioni televisive, niente copertine, ma per Vasco non è finita. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Durante questi 2 anni, una delle figure che hanno un ruolo fondamentale nella vita di Vasco è quella di Maurizio Lolli, suo amico e manager. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti che... Era proprio protettivo, ecco, protettivo nei miei confronti. Quando lui a un certo punto gli è venuto un tumore al polmone, è stato uno shock perché mi è mancato proprio tutto, mi è mancato l'amico, il confidente, quello che il fratello, capito, insomma tutto. Qui non arrivano gli angeli. Questo è il caro Lolli, al quale ancora voglio molto bene, che grazie ancora di essere esistito. Dopo quasi 2 anni di pausa, il primo album di Vasco si intitola C'è chi dice no. E per promuoverlo, Vasco ritorna sulla scena e rilascia questa intervista. C'è qualcosa che non va in questo cielo. Buonasera Vasco Rossi. C'è chi sarà sorpreso di rivederla. Con 2 anni di assenza dal mondo della canzone si rischia di farsi dimenticare. In Italia sì, è così. Lei ha affermato in un'intervista di essersi ritirato perché si sentiva responsabile di tante cose. Quali sarebbero? No, non mi sono ritirato perché mi sentivo responsabile di tante cose. Semplicemente mi sono fermato un attimo anche perché ero arrivato a un punto che... cioè dovevo fermarmi un po' perché non avevo più voglia, non mi divertivo più, insomma. Non hai rinnegato dopo questi guai con la giustizia la sua vita spericolata? Cioè, la mia vita spiritualata è sempre stato un sogno di una canzone. Ma può essere pericolosa una canzone per un giovane? Sì, come può essere pericoloso un film di violenza. Anzi, credo che forse un film come Scarface sia ancora più pericoloso. È vero che ad ogni arrivo all'aeroporto la perquisiscono da capo a piedi? No, però agli aeroporti a volte, come tutti, arriva il cane, quindi mi guardo e rimangono abbastanza stupidi di non trovarmi niente addosso, questo è il punto. È fidanzato? No. Ha mai ricevuto uno schiaffo da una donna? Sì, molti. È il 23 febbraio del 91, il settimanale Sorrisi e Canzoni pubblica un sondaggio sui personaggi più popolari in Italia. A sorpresa Vasco Rossi si piazza ai primissimi posti insieme a Umberto Bossi, Giulio Andreotti, a Paolo Villaggio e Roberto Baggio. Vasco, insomma, ce l'ha fatta. Si è buttato alle spalle il momento più buio della sua carriera ed è pronto ad affrontare nuove sfide. Inizia dai palazzetti dello sport e poi è la volta dei grandi stadi. Il primo in Italia a farlo. Neanche le star internazionali conquistano tanto pubblico. Riempie ancora gli stadi perché intanto Vasco lo sente mio babbo, lo sento io, e fra 2 anni lo sentirà anche Luca, che è mio fratello piccolo che ha 10 anni. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra solo per voi. Vasco ormai è un fenomeno quasi da famiglia. Io vado ai suoi concerti, ormai ci sono i padri e le madri che portano i figli, e poi secondo me i figli porteranno i figli dei figli. La cosa straordinaria è stato riuscire a continuare a mantenere il rapporto con quelli più giovani. Quello è stato un miracolo che non so neanche io come ho fatto a fare, sinceramente. Però forse perché usando sempre lo stesso linguaggio, io delle volte mi dico, ad esempio, una canzone come Siamo solo noi è una canzone di ribellismo, di ribellione giovanile. Quella che c'hai sempre quando arrivi a 17, 18 anni, 20 anni, insomma. Cioè, ti ribelli a tutto, ti ribelli alle regole, ti ribelli ai genitori, ti ribelli, insomma, ti ribelli perché hai bisogno di provare i limiti, tu. Quindi è un periodo che si passa, nel quale naturalmente tua madre ti dice sei solo te che fai così, guarda, mi dice mia madre, sei solo te, guarda invece la figlia della, come brava, che va bene a scuola, eccetera, sei solo te, sei solo te. Allora questo sei solo te l'ho trasmutato in siamo solo noi. Siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi. Quella canzone lì, quando tu la senti e hai 16, 17, 18 anni, te la senti tua, perché ti racconta appunto, racconta un periodo di vita che tutti passano, tutti attraversano. Quelli che poi muoiono presto. Io quando canto una canzone sul palco, non è che la canto, o la interpreto, io la vivo. A quel punto lì si vede che l'emozione viene trasmessa talmente tanto che li sento proprio che si emozionano, poi vedo gli occhi di quelli davanti, sento che arriva questa emozione, perché poi mi ritorna come un'ondata enorme, ed è lì che poi alla fine poi viene il delirio di onnipotenza, in effetti. Nella vita, sinceramente, ho sempre mi è sempre piaciuto frequentare i limiti di tutto. Il senso del limite credo che ci sia proprio all'interno, perché ci sono dei limiti, in effetti. Anche questa è una cosa che ho scoperto. E la libertà ha un senso sempre se è all'interno comunque di un limite, perché sennò non è libertà, sennò è un casino, cioè sennò è caos. Però, notevole questo. E questa ricerca di un equilibrio tra il limite e la libertà, la ribellione e il rifiuto di ogni ipocrisia attraversa molte delle canzoni di Vasco Rossi. Questi altri temi si vestono però nelle sue note di toni ironici e graffianti, disincantati e dolcissimi, che fotografano istanti ed emozioni, e spesso i ritratti femminili affiorano straordinari nei suoi brani. E allora qual è il rapporto tra Vasco e le donne? E cosa ne pensa la donna che divide la vita con lui dal 1988? Queste le dichiarazioni in esclusiva di Laura Schmidt, compagna di Vasco. Ora che sono qui, in questo stupido hotel. Lui è uno che comunque, come dire, succhia moltissimo tutta l'energia, ce ne ha bisogno, ti succhierebbe anche l'anima se potesse, capito? Proprio lui è così. Farmi la barba. E poi questi suoi, questa sua arma che ha, questi suoi occhi bastardissimi, perché sono, cioè, io non lo so, però lui, cioè, se mi dice delle cose guardandomi in un certo modo, io, cioè, però mi può chiedere tutto. Questa dolcezza che è talmente infinita che è quasi devastante. Dico devastante perché, ripeto, è un'arma a doppio taglio, cioè, capito? Perché è disarmante, ecco, è disarmante la sua dolcezza. Sono stato massacrato scientificamente da una femminista. Dopo un anno che stavamo insieme, c'era il mito della sincerità. Lei mi disse: senti, dai, allora dimmi la verità, in questo periodo hai avuto mai altre storie? Quindi gli dico: va bene, sì, ne ho avuto altre due o tre, ma molto poco importanti. Cioè, tu sei la più importante della mia vita, le altre non contano un cazzo. Questa mi è andata a cagare subito. Poi, dopo una settimana, è tornata con la scientifica intenzione di distruggermi sotto tutti i punti di vista, psicologicamente, fisicamente. Se io conosco tutti i miei difetti, lo devo a lei, perché me li ha detti tutti. Io quei tempi pensavo di non avere, tra l'altro, ovviamente. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia. E allora qual è il rapporto tra Vasco e le donne? Queste le dichiarazioni di Laura Schmidt, compagna di Vasco. Vasco è una persona estremamente intelligente, estremamente fedele alla persona che ama, ma non nel senso fisico. E io probabilmente forse non lo pretendo nemmeno, sinceramente. Cioè, la fedeltà significa: io ho bisogno di te, tu ci sei, ma ci sei con amore. Cioè, capito? Cioè, sempre. Qualsiasi cosa succeda, tu mi ami incondizionatamente. Come stai? Ti distingui dal luogo comune? Ti piace vivere come vuoi? E vuoi rispondere solo a te? Secondo me si sbaglia molto quando si pensa all'amore eterno. Perché l'amore eterno non è che esiste, c'è la passione iniziale, c'è l'amore magari iniziale, capito? Poi dopo un po' però le cose cambiano, insomma. Ma se tu rimani convinto di amare il progetto che stai facendo, che è la famiglia, con un figlio, e pensi che a quel figlio che hai fatto nascere è giusto che gli dai almeno 20 anni di serenità, con un papà e una mamma, a quel punto lì è ovvio che non è che ti puoi più innamorare di qualcun altro, cioè, e metterti un po' da parte, insomma, il tuo ego. Io avevo 15 anni alle spalle di vita completamente turbolenta. Lei mi è stata vicina sempre in tutti i momenti, senza giudicarmi mai, questo forse è fondamentale, anzi, cioè, forse compatendomi per quello che sono, non lo so, però in ogni caso insomma è sempre stato presente. Quindi, e abbiamo fatto un patto un giorno di sangue, perché ci siamo proprio tagliati un dito, abbiamo unito il nostro sangue e a quel punto il patto è quello, ed è il progetto, costruire una famiglia. Da Laura Schmidt Vasco nel 91 ha avuto Luca, il suo terzo figlio maschio. Altri due figli, Davide e Lorenzo, li aveva avuti da due precedenti relazioni. Tutti e tre però sembrano aver ereditato in qualche modo il talento del padre. Attori i primi due, il più giovane Luca invece ha disegnato per il padre i cartoni animati del video Basta Poco. Queste le sue parole. Basta poco a fare impressione. Le raccomandazioni che mio padre mi fa sono, diciamo, tante. Per ricominciare mi dice di stare lontano dalle droghe, ovviamente. Si fa presto a montarsi la testa, e d'altronde questa qui, la realtà di questa vita, ci si guarda solo fuori. Quando ero piccolo mi ha sempre colato molto. Il tipo di confidenza che ho con mio padre ovviamente trascende qualunque tipo di confidenza che può avere qualsiasi altra persona, insomma sono suo figlio, no? O poi di ragazze non parliamo molto, perché non ho mai avuto grande successo. Non so perché non ho mai avuto grande successo, lo devo ammettere, e quindi io poi sono timido, tendo a lasciar molto perdere. Probabilmente potremmo parlare anche di quello, anzi sicuramente quando ne avrò una seria. Io avrei voluto veramente una femmina, perché avrei voluto una donna che mi amasse, una che mi amasse veramente. Invece si vede che il destino voleva che non ci fosse. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere. Ma Vasco Rossi ha ancora un sogno? Sì, quello di sapere l'inglese, senza bisogno di studiarlo, perché non ne vuole studiarlo, vorrei sapere e basta, anche saper nuotare, senza bisogno di provare. Non sai nuotare? No. Galleggio, come nella vita. Vivere, vivere. A me piace andare via senza dire niente, perché quando saluto mi viene una tristezza pazzesca. Perché veramente io saluti non li. Non, cioè, insomma, io chiedo scusa e chiedo anche comprensione per questa faccenda, cioè mi mette tristezza. Volete mettermi tristezza? No, voi volete darvi gioia, no? Quindi ecco, lasciate che non mi saluto quando vado via. Tanto torno.